I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. Luglio, secondo la Confcommercio, sarà un mese da incorniciare quanto a consumi degli italiani. L'indicatore messo a punto dall'Associazione dei Commercianti, infatti, fa registrare un aumento dello 0,4% sul mese precedente e soprattutto un più 2,1% tendenziale, che è il valore più alto dal 2010. Per Confcommercio questo significa addirittura che il PIL potrebbe chiudere l'anno con un più 1,1% e diventare dell'1,4% l'anno successivo. Sono dati indubbiamente ottimistici, visto che il prodotto interno lordo nelle stime del governo dovrebbe crescere dello 0,7% quest'anno, anche se già si sa che comunque verrà rivisto al rialzo. L'analisi dei dati forniti ieri dimostra che gli italiani stanno recuperando gli acquisti sui beni durevoli, soprattutto le auto, che come è noto sono oggetto di un vero boom di vendite. E non c'è ancora lo stesso trend sostenuto sui beni di largo consumo, visto che ad esempio per alimentari, bevande e tabacchi proprio luglio segna un calo dello 0,2%. La fiducia ai consumatori insomma si va consolidando, anche se non si può ancora dire che si sia imboccata una robusta via della ripresa. Sono segnali, come ne stanno venendo da un po' di mesi a questa parte, proprio sul PIL, sulla produzione industriale, sull'export, sui prestiti alle famiglie, sui mutui e anche sull'occupazione, per quanto piccoli. Qualcosa in effetti si sta scongelando. Per arrivare alla svolta vera serve però un altro colpo di acceleratore sulle riforme, a cominciare da un deciso taglio fiscale su lavoro e impresa e da un massiccio piano di investimenti, operazione che potrebbe venir compromessa dalla scelta fatta dal governo, o meglio annunciata, di dare la priorità alla riduzione delle tasse sulla casa. È un momento delicato per l'economia e sbagliare le priorità dell'agenda potrebbe mettere il piombo sulle ali di una ripresa che ancora sta solo rullando sulla pista. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.